notte tutto tace, io solo senza pace. Nell'ombra mi confondo, insonne vagabondo, fantasma del dolore. Mi proverò a cantare, se non si spezza il cuore, sarà la serenata, la tragica ballata di un uomo senza amore. Senza di te non posso più sognare, non ti potrò mai più dimenticare. Sulla tua bocca in fiore è nato per me l'amore, così tu m'hai preso il cuore, perché senza di te son come foglia morta, spinta dal vento presso la tua porta. Ed invocare il sole perché mi riscaldi il cuore soltanto con le parole dell'amore. I baci che m'hai dato non ho dimenticato, son tutti nel mio cuore che sogna senza amore e vive d'illusione. Insegnami la strada che a te mi condurrà, tu sei una cosa mia, poiché non c'è follia più grande del mio amore. Senza di te non posso più sognare, non ti potrò mai più dimenticare. Sulla tua bocca in fiore è nato per me l'amore, così tu m'hai preso il cuore, perché senza di te son come foglia morta, spinta dal vento presso la tua porta. Ad invocare il sole perché mi riscaldi il cuore soltanto con le parole dell'amore.